Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno cari amici, buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Noi siamo pronti con Carmelo Lauricelli, regia alla parte tecnica, e Laura Vanossi in redazione. 800 24 0024 il nostro numero verde, sempre a vostra disposizione, così come quello per inviare i vostri messaggi: 349 238 6666. Dedichiamo l'intera puntata di oggi all'alcol. C'è una letteratura scientifica molto generosa che ci dice che l'alcol è causa di almeno 60 malattie, ma le ricerche dicono anche che un consumo giudizioso, direi moderato, di alcol può far bene. Grosso modo la scienza quindi conferma quello che la saggezza contadina ha sempre insegnato, e cioè che la moderazione premia. E voi siete moderati? Cosa bevete? Quanto bevete e quando? Ormai tutti lo sappiamo, ce ne stiamo rendendo conto, che le modalità di assunzione di vino e superalcolici sono cambiate. Si beve tanto la sera per stordirsi un po', per fare baldoria, un bicchiere dietro l'altro succede spesso tra i ragazzi, di cui parleremo, ma aumenta anche il numero di donne che cercano nell'alcol una soddisfazione, un po' di coraggio, una stampella che le aiuti a reggere il peso della vita. 824 0024 se volete intervenire, confrontarvi con noi, raccontarci le vostre esperienze. E in linea con noi abbiamo due esperti: il professor Carlo Lavecchia, capo del Dipartimento di Epidemiologia dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano e docente di epidemiologia presso l'Università di Milano. È tornato a trovarci, professor Lavecchia, grazie. Buongiorno a tutti. In linea è tornato ancora a trovarci il dottor Vincenzo Marino, che è psichiatra e direttore del Dipartimento di Dipendenza dell'ASL di Varese. Dottore, buongiorno, bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Professor Lavecchia, sbaglio se dico che l'alcol è un po' come un farmaco, nel senso che a piccole dosi giova, ma che se si eccede diventa veleno, o è un paragone un po' azzardato? Sì, è un po' azzardato, perché il giovamento dell'alcol, che è dovuto a una riduzione di moderate quantità di alcol sul rischio cardiovascolare, è ristretto principalmente agli uomini di mezza età e anziani, o eventualmente alle donne sopra i 60 anni, ossia quando l'infarto miocardico e le altre malattie vascolari hanno un reale impatto sulla salute. L'alcol nei giovani non può proteggere dall'infarto perché non c'è l'infarto, quindi diciamo sotto i 45-50 anni negli uomini e sotto i 55-60 anni nelle donne non c'è nessun effetto favorevole dell'alcol. È vero d'altra parte che un consumo moderato, ma il consumo moderato vuol dire un bicchiere al giorno massimo per le donne, due bicchieri al giorno per gli uomini, non fa molto male, non ci sono impatti importanti su nessuna malattia, quindi se il consumo resta entro questi limiti non vi sono male, non fa, possiamo male dire non fa, però arrivare a dire che fa bene non è corretto, se non per queste classi di età, ossia. Infatti il famoso paradosso francese: molte persone, no, cercano, anche se superano i limiti, dicono sì, ma c'è il paradosso francese un po', no, il vino fa buon sangue. E sono contenta che lei abbia sottolineato, professor Lavecchia, proprio il ruolo, la funzione dell'alcol. Sì, e l'altro punto è che l'alcol è alcol, quindi che venga da vino, che venga da birra, che venga da superalcolici, l'effetto sulla salute nel bene ma soprattutto nel male è analogo, non è che il vino faccia meglio della birra, quindi questo bicchiere uno può scegliere se berlo di vino, di birra o di superalcolico, ma l'importante è che non sia più di questo. Dottor Marino, invece sappiamo che facilmente si eccede, le dosi, quelle permesse sono sempre più superate, soprattutto tra i giovani, se ne parla tanto in questi ultimi anni, perché sta prendendo piede un modo tutto particolare di assumere alcol. Sì, diciamo che in termini generali la consapevolezza dei rischi legati all'abuso alcolico, che ha ben evidenziato il professor Lavecchia, questa consapevolezza sembra farsi strada nei paesi sviluppati, nel senso che nell'Europa occidentale, in Australia, nel Nord America, il consumo medio, diciamo, pro capite di alcol puro si sta abbassando. Per esempio, questo anche in Italia, per esempio in Italia nel 1977 era quasi 12 litri e mezzo di alcol puro pro capite l'anno, attualmente siamo a poco più di 6 litri, 6,3, quindi molto vicini al parametro raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è di 6 litri pro capite, come soglia non superabile. Contemporaneamente è aumentato il numero dei consumatori, che ormai è attorno all'81,5%, ma è calato quello dei forti bevitori. Solo il 5,2% dichiara di essersi ubriacato almeno una volta negli ultimi 3 mesi. Naturalmente i maschi sono molto più delle donne. A fronte quindi in pratica si bevono più persone, ma bevono meno. Il contrario accade nei paesi, diciamo così, meno sviluppati. Anche però nei paesi sviluppati esistono delle nicchie di abuso, sì, che riguardano sicuramente i giovani in particolare. Ad esempio l'ultima ricerca HBSC condotta in Lombardia sugli stili di vita, a cui ha partecipato anche il nostro dipartimento, ha mostrato che già tra i ragazzi undicenni il 34% aveva consumato alcolici, e in qualche modo il 12% dei maschi e il 3,6% delle femmine dichiarava di essersi ubriacato almeno una volta. Più in generale, come lei evidenziava, si sta diffondendo fra i giovani, insomma dai 13 ai 24 anni soprattutto, la famigerata pratica del binge drinking, quindi l'assunzione di almeno 5 unità di alcol nel giro di 2 ore lontano dai pasti. Questa percentuale è stata riscontrata essere una percentuale elevata, quindi il 15% dei maschietti e il 6% delle femmine ha dichiarato di avere in qualche modo avuto un episodio di questo tipo negli ultimi 3 mesi. Questo è molto pericoloso perché anche al di là degli effetti cronici dell'alcol, che danneggiano un po' tutti gli organi e apparati, una intossicazione acuta da alcol può portare addirittura, come dire, al coma e alla morte, perché l'alcol è un sedativo, addormenta i nostri neuroni, le cellule del sistema nervoso, e può arrivare, come accade anche con gli oppiacei, a addormentare i centri del respiro, quindi rallentandone la frequenza fino all'arresto respiratorio e al coma. Professor Lavecchia, a proposito di ragazzi, molti genitori dicono meglio una sbornia che una pasticca o uno spinello. Vogliamo fare un commento a questo, che no, è abbastanza, preferiscono che beva con gli amici piuttosto che si avvicini a queste pasticche, professore? Sì, è meglio di uno dell'altro, quindi questo è fuori discussione. Non c'è motivo per cui un ragazzo debba ubriacarsi una o più volte. Quindi il messaggio da dare ai ragazzi è che ubriacarsi non è divertente, che implica dei rischi immediati per la propria salute, ma il primo messaggio è che non è divertente, insomma. Quindi questo è il messaggio da dare ai ragazzi. È vero però anche quello che dicevamo prima, ossia che il consumo di alcol è considerevolmente diminuito in Italia. L'Italia, insieme alla Francia, nei primi anni 80 era il paese d'Europa e forse al mondo dove si beveva più alcol, mentre oggi è uno dei paesi in Europa dove si beve di meno, e quindi dal punto di vista del successo del messaggio e del successo sulla salute pubblica, l'alcol è stato uno dei fattori principali. Noi stiamo meglio perché beviamo molto meno alcol, la cirrosi, i tumori legati all'alcol sono crollati in Italia. Quindi questa è sicuramente una buona notizia, che diventiamo anche positivi, mi sembra che sia importante sottolinearlo. Ecco, e anche per quanto riguarda i ragazzi, sì. Un ragazzo ubriaco, alterato, è sempre uno di troppo, però non bisogna, secondo me, pensare che siano di più oggi di quanti fossero 20, 30, 40 anni fa. Quindi secondo me anche i ragazzi oggi hanno un comportamento globalmente più responsabile, con ciò si può fare di più, si può contenere il consumo e si può ripetere ai ragazzi che non devono eccedere. Andiamo a Giovanni, ci chiama da Brescia all'824 0024. Giovanni, benvenuto, buongiorno. Buongiorno a voi e grazie per la trasmissione, siete sempre competenti e veramente utili. E parlando di alcol, io ho 48 anni, sono sportivissimo e gioco 3-4 volte a tennis a settimana in pausa pranzo. alla sera arrivo a casa, a volte un po' stanco, a volte un po' teso, con le preoccupazioni di tutti i giorni, insomma, uno 0,75 la apro e la finisco di ottimo vino. Sì. Questo è un po' troppo. Un'altra cosa, avendo dei valori nel sangue, i trigliceridi, che sono over the top, l'alcol può contribuire ad alzarli, e devo dire che l'unico effetto purtroppo che ho, pur facendo tanto sport, che bevendo alcol l'airbag della pancia esce e quindi non fa una bella, diciamo, impressione, pur essendo, ripeto, sanissimo, non bevendo super alcolici, non partecipando a happy hour vari, sì, e tutto, e non bevendo fuori pasto, però la sera mi fa un po' da effetto placebo. Ci può stare? Grazie Giovanni. Professor Lavecchia, ci può stare? No, non ci può stare. 0,75 è troppo, perché sono 60 grammi di alcol e bisogna ridurre il consumo a molto meno della metà. L'altro punto è che comunque non ha un effetto favorevole, perché anche una persona abituata a bere 0,75 dà comunque nell'immediato una certa sonnolenza, che poi quando i livelli ematici dell'alcol scendono, quindi dopo 2-3 ore, si trasforma in eccitazione, per cui succede spesso che chi beve a questi livelli si addormenta o comunque non riesce a essere vigile nell'immediato, e poi dopo 2-3-4 ore invece si sveglia o comunque è eccessivamente vigile. Quindi anche non ubriacandosi, perché io sono sicuro che lei non abbia reali alterazioni, poi se sta in casa non ci sono dei problemi particolari, però anche non avendo danni di questo tipo, in realtà non è un buon modo di bere alcol, perché ha questi effetti psichici che non sono favorevoli. Dottor Marino, io vorrei invece con lei approfondire anche un altro aspetto. Noi sentiamo di ragazzi che fanno un uso di stupefacenti, magari una volta alla settimana, ma non hanno la percezione di essere dipendenti. Questo può succedere anche con l'alcol, cioè posso infilarmi in una relazione pericolosa con il bicchiere di vino, più bicchieri di vino, con la bottiglia, vado avanti, col superalcolico, senza averne la percezione, perché in questa puntata noi vogliamo, amici, parlare, no, degli effetti dell'alcol, ma anche del rischio di rimanerne avvinghiati, anche se i nostri esperti, il professor Lavecchia e il dottor Marino, ci hanno dato una buona notizia, si è ridotto, no, almeno il numero dei forti bevitori. Dottor Marino. Ma sì, uno degli equivoci comuni è ritenere, come dire, che è l'ubriachezza l'unico elemento di pericolosità collegato all'assunzione di alcolici. In realtà, al di là dell'ubriachezza, quando l'assunzione di alcolici è frequente o addirittura quotidiana, quello che può svilupparsi in modo purtroppo subdolo e quindi poco evidente è una graduale dipendenza dalla sostanza. Noi esseri umani, diciamo, nasciamo al caldo nel pancino della mamma e ci portiamo dietro una nostalgia profonda per le esperienze. Infatti tutte le manifestazioni affettive sono un po' qualcosa che ci consola e ci richiama a questo tipo di esperienza. Quando le cose vanno bene andiamo avanti, quando le cose abbiamo degli ostacoli, delle difficoltà, tendiamo a voler tornare indietro. L'alcol, per questa sensazione un po' di calore, di tranquillità, di sicurezza che ci trasmette, può costituire sicuramente un'esperienza gradevole, che è la ragione per cui le persone tendono ad abusarne. E noi esseri umani tendiamo a voler ripetere le esperienze piacevoli e tendiamo ad affezionarci a queste, quindi quando poi a un certo punto dobbiamo staccarcene facciamo una grande fatica, sia che si tratti di una persona sia che si tratti di una sostanza. Tra l'altro Freud diceva che il rapporto del bevitore con la bottiglia è il modello del matrimonio felice, perché la bottiglia è sempre lì quando la cerchi, non ti dice mai di no e, come dicono molti miei pazienti, soprattutto non parla. Allora, certamente quando l'assunzione è frequente c'è il rischio che si sviluppi intanto tolleranza, quindi un aumento lento e progressivo delle quantità assunte, e dipendenza, diciamo desiderio di continuare ad assumerlo quotidianamente sempre di più, fino a quando si instaura anche una vera e propria dipendenza fisica con sintomi astinenziali. Di questo parleremo, ma io voglio introdurvi Clara, che qua in studio con me è passata da un'esperienza che è riuscita a superare grazie ad Alcolisti Anonimi, è uscita, adesso è fiduciaria dei servizi generali di Alcolisti Anonimi del Nord Italia. Clara, benvenuta. Grazie, buongiorno. Le donne sono una categoria molto più fragile nei confronti di questa dipendenza. Tu come hai iniziato a bere, quanti anni avevi e soprattutto quando ti sei resa conto che era arrivato il momento di chiedere aiuto? Io ho iniziato a bere a 18 anni, 20 anni, ma legato strettamente alla mia professione. Cioè io bevevo per farmi forza, per farmi coraggio. E perché non ho mai accettato di perdere. Perciò io avendo un lavoro che dipende da me, il risultato del mio lavoro, bevevo ogni qualvolta avevo un incontro, un appuntamento, un contratto da definire. Perciò l'alcol per me è stato una droga per farmi vivere, per farmi andare avanti nella vita in quel momento, naturalmente. Certo, ti dava coraggio. Mi dava coraggio e soprattutto mi dava la forza di anche sopportare magari una cosa che non poteva andare bene. Io non accettavo che le cose non andassero bene. Perciò io bevevo per farmi forza, che esattamente il contrario, cioè bevevo per diventare adrenalinica, non per calmarmi, per essere sempre sulla cresta dell'onda, per essere sempre felice, serena, attiva, per non dire mai di no, per non dire mai non lo so, per avere sempre una risposta a tutto e a tutti. E tutto questo lo trovavi nell'alcol fino a un punto infatti in cui questa bottiglia, che come diceva il dottor Marino non parla, sì, ma ha procurato, no? Ti ha detto qualche cosa, ti ha fatto capire che senza di lei non potevi vivere. Ben, sei a pezzi, vieni, è tutto quello che ho in tasca, eh? Però fai il favore, non berteli qui, eh? Ah, come ti chiami? Terry, mi va di offrirti un drink. Sto bene così, grazie. No, voglio offrirti un drink, Terry. Barman, prego, da bere per la signora e un altro per te. Io sono Benjamin. Ben. Benny Good, ma giuro, no, io a te ti trovo molto sexy. Bello, sexy. Guarda che occhi. Sexy come una gattina. Mi tiri su. Mi tiri su. Sei alta, giusta, tonda, giusta, taglia, giusta. Tu sei una gatta perfetta. Beh, tutto il giorno che bevi. Sì, certamente. But, dammelo un altro. Faresti meglio a bere di meno. O forse farei meglio a respirare di meno, Terry. Era via da Las Vegas. Clara, quando ti sei accorta che la bottiglia non ti dava coraggio ma ti ingabbiava? Quali sono stati i segnali? Ma ho accompagnato casualmente una mia amica nei gruppi di Alcolisti Anonimi. Io non avevo consapevolezza di avere un problema con l'alcol, sapevo solo che stavo malissimo, non avevo individuato nell'alcol il mio star male. Pensavo più ad un dolore che è anche un dolore interno, ma non lo legavo all'alcol. Ho accompagnato una mia amica ad un gruppo, mi sono seduta, ero negli Stati Uniti, ero a Brooklyn, mi sono seduta sulla sedia di questo gruppo. Gli amici del gruppo non hanno capito che io stavo accompagnando qualcuno, ma soprattutto hanno capito loro che io avevo un problema con l'alcol e mi hanno trattato con molta naturalezza. Quando ho sentito leggere i 12 passi di Alcolisti Anonimi, che è il nostro programma di recupero, io sono rimasta folgorata, mi sono innamorata dei 12 passi di Alcolisti Anonimi, ma soprattutto ho capito che in quel luogo io avrei trovato una soluzione a quello che in quel momento ho capito era il mio problema, cioè l'abuso di alcol. E da allora? E da allora ho smesso di bere. Da quel giorno. Da quel giorno? Sì. Con i 12 passi? Con i 12 passi. La filosofia è per oggi? Solo per oggi non bevo, per questo minuto, per queste 24 ore. E non quante bevo. 24 ore? Quanti oggi hai contato? Da tanti. Quando? Io sono in Alcolisti Anonimi dal 7 novembre del 2001, una data che ricordo benissimo, una data che ha cambiato la mia vita. Dottor Marino, professor Lavecchia, la storia di Clara che cosa ci insegna? Dottor Marino, è frequente trovarsi a essere dipendenti senza accorgersene? Clara ha detto: ho accompagnato un'amica e loro hanno capito che il problema era mio. È assolutamente frequente, anzi potremmo dire che in qualche modo la negazione dell'esistenza di un problema è la regola. Questo perché noi siamo abituati nella nostra cultura occidentale a ritenere che il nostro comportamento dipende dalla volontà. E quindi quando una persona beve in modo eccessivo tutti pensano che lo faccia per scelta, quindi che si tratti effettivamente di un vizio, e la incoraggiano a smettere. In realtà, diciamo, chiedere a una persona che ha un problema di dipendenza di smettere è un piccolo paradosso, perché se fosse in grado di smettere non avrebbe un problema di dipendenza. Gli si può chiedere di mettersi in un cammino per smettere. Come smettere? Poi generalmente un aiuto quindi è fondamentale, molto importante per arrivare all'obiettivo. I gruppi di alcolisti anonimi hanno poi una metodologia che io ammiro moltissimo e che ritengo estremamente efficace. Questo perché noi abbiamo una difficoltà di accettare i nostri limiti, soprattutto in una società competitiva come la nostra, e quindi in qualche modo chiediamo all'alcol e alle sostanze di cambiarci, di modulare la nostra personalità, di renderci più sicuri. Per esempio, io posso essere a una festa, sentirmi imbranato, poco attraente, allora magari bevo perché ritengo che così sarò più brillante, sarò più accettato, farò il giuppino della serata. Ecco, questo in qualche modo Alcolisti Anonimi invece ti insegna la via dell'umiltà, ti insegna ad accettarti. Io trovo particolarmente bella la preghiera degli Alcolisti Anonimi che dice: mio Dio, dammi la forza di cambiare ciò che posso cambiare, il coraggio di accettare le cose che non posso cambiare e la saggezza per distinguere la differenza. Voglio farvi ascoltare un breve estratto che ho trovato sul sito di Alcolisti Anonimi, poi parliamo con Luigi da Roma, Manuele e Daniela, perché per me è stato quasi emozionante. Andiamo a sentirlo. Forse l'aspetto più strano e insidioso di questa malattia è il suo nascondersi allo stesso ammalato. Gli alcolisti sono molto ben allenati a non voler vedere il proprio male. Spesso, anzi, sono gli ultimi ad ammettere di avere un problema con il bere. Se la malattia è tanto difficile da individuare, come potrai essere tu a dire se sei o non sei un alcolista? Qual è il sinonimo che te lo fa capire? Bere di mattina? Bere da sola? Non necessariamente. La prova non sta nel guardare quando bevi, o con chi, o quanto, o dove, o che cosa. L'alcol è sempre alcol, indipendentemente dal fatto che sia mescolato con altri aromi o diluito, e nemmeno nel capire perché bevi. La domanda più importante che ti dovresti porre riguarda che cosa ti ha procurato il bere, quali sono i suoi effetti sulla tua famiglia, sul tuo lavoro o attività scolastica, sulla tua vita sociale, sul tuo benessere fisico, sulle tue emozioni interiori. Credo che dica tutto. 824 0024 se volete condividerla con noi. Luigi ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno, buongiorno signora, buongiorno a voi. Siamo qua, ci racconti. Ma io, guardi, in sintesi, per essere breve, direi questo dall'esperienza mia, che in sintesi è una terribile trappola, perché uno non si accorge negli anni, anno dopo anno, lustro, decennio, non si accorge che inizia con l'alibi della moderazione, e non si accorge che invece dopo 10, 20, 30, 40 anni questa moderazione è sempre in aumento. Per cui a un certo punto, se fa un ragionamento, dice: ma io 40 anni fa quanto bevevo? E oggi quanto bevo? No? Allora i conti non tornano. Poi a un certo punto fa delle riflessioni, sì, e la pubblicità e il cerimoniale e il colore e tutte queste cose qui, si accorge che tutta, come dicono a Roma, io sono romano di adozione, una gran bufala. Per cui io, avendo smesso di fumare a 30 anni quando il fumo era proprio pubblicizzato, fuma qui e fuma lì, e i film ne facevano, dicevano Humphrey Bogart, sì, avrà portato al fumo chissà quanti, milioni di fumatori e ho smesso di fumare 30 anni fa e mi è stato molto difficile smettere. Quando ho fatto lo stesso ragionamento sull'alcol, sul vino, io non ho mai bevuto superalcolici. È stato più difficile? No, è stato più difficile il fumo. Mm. L'alcol alla fine è forse una maturità mentale, psicologica più, come dire, più... ho fatto 2 più 2 fa 4, qui 2 sono le cose. Uno o continua e continua ad aumentare o gli do un taglio. Gli ho dato un taglio 3 anni fa è finita. Ed è finita. Grazie Luigi. Sì, sì, sì, sì, io no. Volevo chiedere al professor Lavecchia. Luigi ha fatto un confronto tra sigaretta e alcol. Cerchiamo di ricavare una riflessione dall'esperienza di Luigi. Allora, il tabacco e le sigarette danno la soddisfazione subito e a tutti, quindi non bisogna fumare neanche una sigaretta per il semplice fatto che se si comincia nell'arco di giorni si diventa assuefatti e poi non si può farne a meno. Il problema dell'assuefazione da alcol è estremamente ridotto. Noi abbiamo sentito Luigi, abbiamo sentito altre persone, altri ascoltatori che bevevano molto e avevano assuefazione, però il 95% forse di più di coloro che bevono alcol, anche troppo come l'ascoltatore che diceva di bere una bottiglia di vino la sera, in realtà non sono assuefatti, non sono alcolisti. Se non hanno l'alcol non succede niente, se non un lieve fastidio perché vorrebbero averlo, ma non c'è una sindrome di astinenza da alcol. Nel 95% di coloro che bevono alcol si fanno male, perché bere una bottiglia di vino vuol dire avere rischi di cirrosi, rischi di tumore molto alti e vuol dire anche se uno guida o se uno fa attività che implicano livelli di attenzione eccetera, rischiare incidenti, poi ci sono le violenze con le altre persone. Per cui il vero problema per la stragrande maggioranza non è la assuefazione, e gli ascoltatori lo sanno perché sanno benissimo che se non hanno l'alcol per 5 giorni alla settimana non hanno nessuna sindrome di astinenza, però il sabato sera magari ne bevono troppo. Quindi il punto è evitare questi picchi, e anche coloro che bevono alcol in maniera ragionevole, in maniera raccomandata tutti i giorni, l'importante è che non superino quei limiti che abbiamo detto prima, ossia un bicchiere per le donne e 2 bicchieri per gli uomini. Perché al di là dei problemi psichiatrici, al di là dell'osservazione eccetera, c'è comunque un impatto sfavorevole sulla salute. Andiamo a Giorgio, ci chiama dalla provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno, io volevo un'informazione. Io ho mio padre che è alla soglia degli 80 anni, per cui anziano, sì. E che è un buon bevitore, cioè anche troppo, i 2 spritz al mattino, la bottiglia da 3/4 a pranzo, la bottiglietta a cena, il bicchiere al pomeriggio, cioè comincia, sì, a essere una cosa importante. Nell'anziano come ci si può comportare? Perché non è facile prendere l'anziano, portarlo al centro Alcolisti Anonimi, cioè anche perché non ammetterà mai di aver bisogno di Alcolisti Anonimi. Allora io chiedo aiuto al dottor Marino e a Clara. Dottor Marino, un attimo, mi stanno facendo, ero presa, scusate, c'è il traffico, e poi torniamo subito dopo insieme. Dottor Marino, un padre ottantenne, forte bevitore. Diciamo che se il papà dell'ascoltatore beve è perché l'alcol gli dà delle sensazioni che vengono da lui percepite come piacevoli. Ora, una persona accetta in qualche modo di rinunciare a qualcosa di piacevole solo se spera di guadagnare qualcos'altro a cui tiene di più, che è più importante, o teme di perderlo. Allora, io ricordo per esempio il caso di un mio paziente, di cui dico il nome di battesimo, diciamo il signor Vittorio, che aveva anche lui attorno agli 80 anni e che beveva da tantissimo tempo e aveva accentuato il bere dopo la morte della moglie, che lo aveva lasciato sostanzialmente da solo, i figli abitavano in un'altra casa, quindi riempiva un po', diciamo, il vuoto bevendoci sopra. Ebbene, in quel paziente che i figli avevano accompagnato da me, si è riusciti, come dire, a fargli accettare, per esempio, di poter partecipare a un gruppo di terapia, dicendole se poi non si trova venga qualche volta, magari per far piacere ai suoi figli in questo momento, veda come si trova, se poi non si trova. Ebbene, quel gruppo ha saputo costituire una nuova famiglia per il paziente, ha costituito, come dire, un nuovo ambito di relazione e di amicizia, e il signor Vittorio ha smesso di bere perché c'era qualcosa che lo legava a questo nuovo stile di vita, a questo nuovo gruppo che andava a sostituire, per il quale valeva la pena di rinunciare al bere. Clara, so che Alcolisti Anonimi organizza anche dei gruppi di familiari, per i familiari, giusto? No, Alcolisti Anonimi collabora, non organizza, siamo due associazioni diverse, in particolar modo con l'associazione Al-Anon, che si occupa del recupero dei familiari dell'alcolista con un metodo mutuato dal programma di Alcolisti. Sì, una specie di reciproco aiuto. Sì, l'amico prima parlava del dolore di vedere un padre che beve. Perciò il consiglio che gli posso dare io è di rivolgersi ai gruppi Al-Anon e di non disperare, insomma. E lì si fa un lavoro proprio sui familiari. Solo sui familiari. Per trovare le parole, i gesti. Daniela, anche per capire. Daniela, da Roma, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora, io ho 50 anni e sono diabetica. Sì. Diabetica da quasi 30 anni ormai. E purtroppo non è neanche un diabete ben compensato, però io non sono assolutamente una bevitrice, però la sera confesso che un bicchiere di vino mi piace berlo. Sì. E a volte mi capita anche dopo cena, se ho soprattutto amici eccetera, di bere, non so, un whisky o una cosa, un super alcolico. Ecco, io volevo sapere quanto tutto questo possa incidere sui valori glicemici e se è una cosa completamente da evitare o in qualche modo da poter aggiustare diversamente, non lo so. Grazie Daniela, io giro subito la sua domanda al professor Lavecchia. Professore. No, non è un problema, l'alcol non ha un impatto sfavorevole sui valori glicemici neanche nei soggetti che hanno il diabete, però bisogna ricordare però che l'alcol contiene molte calorie, quindi molta energia, quindi se uno usa alcol, se uno beve un bicchiere d'alcol o di bevanda alcolica, deve mangiare un po' meno perché ci sono le calorie, ci sono, quindi se uno vuole controllare il peso, la prima cosa che da ridurre l'alcol. Il bicchiere contiene 100, 150, 200 kilocalorie, quindi è un contributo considerevole. Carlo ci chiama da Milano. Buongiorno Carlo, benvenuto. Buongiorno e grazie per l'ospitalità. Siamo qua. Allora, io ho vissuto un'esperienza come familiare, ho sentito prima parlare l'amica che parlava dei gruppi familiari Al-Anon per familiari e amici di alcolisti. Dico solo poche parole per raccontare un po' la mia esperienza. Io sono il marito di un familiare che aveva questo problema dell'alcol. È stato sono stati anni duri, difficili e non sapevo mai come comportarmi ad ogni tipo di atteggiamento e comportamento. Un giorno ho incontrato questa associazione che frequento ormai da ben 27 anni. Oggi mi sento una persona completamente diversa. Mia moglie ha smesso di bere da subito con il suo programma. Io mi sono accorto che comunque alcuni miei comportamenti, ad esempio il controllo, il continuare a voler sapere cosa facesse tutto il giorno, il sapere o voler sapere quanti soldi spendesse per questo benedetto alcol, mi ha creato un sacco di problemi. Quali i problemi? Ad esempio mi ero un po' emarginato e ho perso un sacco di amici, problemi sul lavoro perché non ero più molto presente, anche se avevo alcune responsabilità proprio lavorative, e non ero più una persona molto corretta. Facendo questo programma che l'amica raccontava nei 12 passi, mi sono accorto che in effetti questo modo di non aver accettato il mio familiare con questo problema mi aveva creato sostanzialmente questi grossi problemi. La mia vita in effetti è cambiata, mia moglie ha smesso di bere, io oggi vivo una vita molto serena, ho parecchi amici, riesco a muovermi, sono una persona attiva, insomma ho ripreso contatto con la vita, cosa che non riuscivo più a fare perché la vergogna mi aveva portato a isolarmi. E questo mi creava un grosso disagio, e per questa ragione che io credo che il fatto che noi come familiari siamo le persone che fanno più fatica a rendersi conto di quello che sta accadendo nella famiglia. La cosa che veramente oggi sta succedendo, e questo lo dico perché è un messaggio che noi cerchiamo di passare, questo messaggio di speranza e di aiuto che diamo all'interno dei gruppi, non è a volte molto chiaro. La cosa che mi aveva soprattutto interessato e incuriosito era quel discorso dell'anonimato, il fatto di non essere registrati, certo. Il fatto di non sapere, nessuno mi chiedeva chi fossi, ecco, in poche parole. E Carlo, ce l'avete fatta, dico ce l'avete fatta, sì, perché sì, ce l'avete fatta proprio fatto. In coppia e in gruppo. Io devo salutarvi perché sto sforando, e saluto il professor Carlo Lavecchia, il dottor Vincenzo Marino, che ringrazio. Grazie, Clara. Segnaliamo sul sito, sulla pagina di Essere Benessere, anche i riferimenti di Alcolisti Anonimi, sì. Perché allora, adesso devo proprio salutarvi. Se qualcuno ci vuole contattare, il centralino nazionale è lo 06 6636 620, e il nostro sito è www.alcolisti-anonimi.it. Grazie, per oggi è tutto, ci sentiamo domani. Essere e Benessere.